Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Riprendiamo la chiacchierata con l'assessore, l'attuale assessore alla mobilità e infrastrutture della regione Lombardia, Gilardoni. Buonasera Gilardoni. Buonasera. E infine abbiamo Orazio Iacono, direttore commerciale ed esercizio di RFI, Rete Ferrovie Italiane. Buonasera Iacono. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli spettatori. Dunque, abbiamo parlato venerdì di un tavolo che è stato messo in piedi in Regione Lombardia, ma in realtà anche nella Regione Emilia-Romagna, per cercare di fare emergere quegli interventi, anche quelli semplici, poco costosi, che si possono fare per aumentare il traffico merci su rotaia nel nostro paese. Sappiamo essere molto deboli su questo fronte, con un traffico merci che è circa la metà di quella che è la media europea. Dunque Gilardoni, che è assessore ma è uno dei tecnici prestati alla politica che vanno molto di moda negli ultimi anni, abbiamo parlato di come spostare segnali di traffico oppure allungare qualche binario possa essere utile per aumentare il traffico merci. Poi un altro aspetto che è venuto fuori è quello in qualche modo legato alla burocrazia. Sì, appunto, questi sono temi molto importanti perché uno può accelerare le rotte, può accelerare, può togliere i bottleneck che decelerano la mobilità delle merci, può fare nuove infrastrutture, ma poi se ci vogliono 10 giorni per sdoganare del materiale, dei prodotti, tutto ciò fa perdere i vantaggi acquisiti in altro modo. Noi nel nostro paese abbiamo un problema molto serio da questo punto di vista, con che però peraltro non è un problema solo nostro, ma un problema europeo, cioè come gestire i flussi di merci provenienti dall'estero e uscenti dal nostro continente, ma senz'altro in Italia abbiamo un'amministrazione che può essere un'amministrazione doganale che può essere molto meglio organizzata. Su questo ci permettiamo di dirlo, sperando che nessuno si offenda, perché abbiamo fatto delle sperimentazioni, per esempio sull'aeroporto di Malpensa, su come sia immaginabile rimettere in ordine le procedure e i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo di sdoganamento e come questo possa venire a obiettivamente. E questo possa accelerare. Ecco, mi pare di capire che un altro problema, le chiedo però una risposta molto rapida, riguardi l'interfacciamento fra la ferrovia e poi la mobilità all'interno delle città. Tra l'altro questa trasmissione si chiama Smart City e sarebbe bello che un po' di merci, invece di arrivare su camion nei centri delle città, arrivassero col treno. Però c'è un problema a far combaciare queste due modalità. Il tema in grande sintesi ha almeno due facce. Cioè un problema di intermodalità, quindi del trasferire la merce dal ferro alla gomma, e su questo noi in Lombardia abbiamo alcuni operatori anche abbastanza importanti, attrezzati per fare questo. Poi c'è il problema di secondo livello di distribuire le merci dai limiti della città all'interno della città. E qua, e qua c'è un problema di smart management sicuramente delle cose, perché oggi non vi è dubbio che la mobilità urbana delle merci non sia ottimizzata, nel senso che ad esempio il tasso di riempimento dei furgoni o dei mezzi che distribuiscono le merci all'interno della città è sempre molto modesto. È molto molto basso, cioè i furgoni viaggiano mezzi vuoti, sì. Dunque, Iacono. Sì, sono qua. Intanto le chiedo se ha qualcosa da aggiungere rispetto a questi temi. Guardi, in Lombardia stiamo lavorando per uno dei più importanti potenziamenti tecnologici della nostra rete. Siamo già partiti, da qui a 3 anni realizziamo un unico sistema di gestione del traffico, quindi concentriamo in un unico punto il comando e controllo del traffico ferroviario, quindi interveniamo sulla tecnologia. Infatti con questo vogliamo tentare di sfruttare questo luogo comune, che per far correre i treni ci vogliono sempre infrastrutture. Abbiamo bisogno di tecnologie. Un esempio è sulla Chiasso Milano: noi abbiamo pianificato e quindi anche finanziato una serie di interventi tecnologici che ci permetterà di aumentare la capacità del sistema, di poter quindi anche soddisfare la domanda di traffico che ci sarà crescente. Ecco, mi fa un esempio, cosa vuol dire? Per esempio che i treni possono viaggiare uno più vicino all'altro? Esatto, esatto. Aumentiamo la capacità e quindi aumentiamo la frequenza dei treni, non solo passeggeri ma anche merci. Quindi sono, lei dice, sistemi di sicurezza. Su questo siamo leader mondiali, perché abbiamo realizzato tecnologie innovative per far correre i treni merci in maniera tale da poterli ravvicinare, perché non sono più distanziati dal cosiddetto segnale o semaforo se guardiamo la strada, ma sono distanziati da una tecnologia che ci permette di poter misurare la distanza tra un treno e l'altro rispetto alla sua capacità frenante. Frenante, è molto chiaro così, insomma. Insomma, mantengono la distanza di sicurezza caso per caso diversa a seconda del tipo di treni e quant'altro. Senta, io a questo punto andiamo in chiusura, le faccio una domanda da $1 milione. È stato fatto un calcolo da un professore dell'Università del Politecnico di Torino, se ricordo bene, veniva fuori che in Italia il trasporto su rotaia è conveniente dal punto di vista economico rispetto a quello su gomma dai 1000 km in su, che vuol dire che o uno va da Milano a Bari oppure bisognerebbe lasciar perdere. Com'è che in Italia costa tanto? Qual è il problema? Dobbiamo incentivare un po' di più il trasporto merci su ferro, ma questo significa e richiede una politica dei trasporti del governo. E disincentivare quello su gomma no? Esatto. Perché una cosa costa, l'altra farebbe risparmiare. Credo che non sia esattamente la stessa cosa in tempi come questi. Anche tenendo conto appunto dell'impatto sull'ambiente, che sicuramente è inferiore sul ferro ed è maggiore sulla gomma. Grazie a Orazio Iacono, grazie a Andrea Gilardoni. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti. A domani.